Si tratta di 5 serate che avranno ogni serata un titolo. Abbiamo già cominciato con martedì 12 luglio con relazioni, giovedì 14 identità e poi futuro, confini e tempo. Come si è sviluppato nel corso di questi decenni? Ma il festival certamente nel corso di questi decenni è cresciuto e si è sempre caratterizzato per questa presenza di autori provenienti dall'Europa e dal mondo. Certamente in questi ultimi anni c'è stata una maggiore apertura anche per il contemporaneo, no? Vedrete specialmente quest'anno che la lettura degli inediti da parte degli autori si colora anche di presenze diverse, perché quest'anno per la prima volta c'è la presenza della danza, ci sono coreografi anche di grande prestigio che comunque arricchiscono il programma delle serate, c'è la musica live e quindi la lettura degli inediti e gli interventi artistici, almeno a nostro parere, si armonizzano molto bene proprio per raccontare questo nostro tempo di oggi, appunto il contemporaneo, questo tempo nostro che poi è stato segnato, no, da una pandemia molto importante, dai disastri climatici, da una guerra che non finisce. E però poi oltre a questo, ecco, la caratteristica, se vogliamo, anche un piccolo elemento di evoluzione rispetto al passato è che con questo titolo Tempo Nostro noi vogliamo rievocare anche un importante anniversario, che è quello della morte di Marcel Proust. Quest'anno ricorre il centenario della morte e Tempo Nostro vuole essere un chiaro riferimento alla recherche di Proust e in particolare al suo tempo ritrovato, perché questo nostro è uno spazio, un tempo di cui noi ci vogliamo in qualche modo riappropriare, che vogliamo ritrovare a modo nostro, naturalmente, perché le cose sono cambiate, e tutto questo lo vogliamo esprimere con i testi degli autori, ma anche con la danza, perché proprio il corpo ci sembra lo strumento migliore per riappropriarsi dello spazio e del tempo. La scelta di questi 5 appuntamenti? È il frutto di un'attenzione non solo per le novità editoriali, ma anche per autori che in alcuni casi sono dei veri e propri classici ormai per il pubblico italiano e in altri casi invece sono degli scrittori un po' più di ricerca, molto conosciuti magari in Europa e in altri posti del mondo, ma che sono la prima pubblicazione in italiano per il nostro pubblico. Quindi si è cercato di offrire un panorama il più possibile ampio di quanto si scrive e si produce nel mondo letterario. E per quanto riguarda le serate, insomma, ci è sembrato interessante lavorare sul mese di luglio e di lasciare spazio ad altre manifestazioni che invece si svolgono nel corso del mese di giugno. E la scelta dello Stadio Palatino è dovuta non solo a motivi organizzativi, ma perché c'è parso questo spazio ancora più suggestivo, ancora più affascinante della Basilica di Maspensio, proprio perché si presenta come un teatro naturale. E naturalmente il lavoro di regia e di coordinamento artistico che ha fatto Fabrizio Arcuri insieme a me, che sono la curatrice del programma letterario, arricchisce notevolmente l'offerta. Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il programma lo trovate su www.cultureroma.it, ma anche sul sito delle Biblioteche di Roma, perché il festival è organizzato da Biblioteche di Roma insieme all'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, e quindi www.bibliotechediroma.it, e naturalmente sulle nostre pagine Facebook della Casa delle Letterature di Biblioteche di Roma e sul canale YouTube di Biblioteche. 5 serate, 12, 14, 18, 19, 21 luglio alle 21, ingresso gratuito per tutte le cittadine, i cittadini romani e i turisti che vorranno venire a farci visita. 21esima edizione del Festival Letterature a Roma, Stadio Palatino, in 5 appuntamenti dal 12 al 21 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice del programma, Simona Cives. A presto! Grazie a voi, arrivederci. Con Gigi Brandonisio, factotum della sesta edizione del Festival della Disperazione, ad Andria dal 20 al 27 luglio 2022, ben trovato. Ben trovati a voi e grazie mille per l'invito. Come nasce questo festival? Il Festival della Disperazione, che oramai ha già 6 anni di vita, nasce come tutte le cose belle a cena, quando uno scrittore che ci piace molto e che si chiama Paolo Nori ci ha raccontato un aneddoto in cui raccontava un altro scrittore che si chiama Carlo Lucarelli, che nella sua vita sostanzialmente aveva incontrato tantissimi festival, dal Festival dell'Amore al Festival della Scienza, al Festival della Filosofia, fino anche a un Festival della Gastroenterologia a chilometro zero, e si erano detti che probabilmente un vero festival letterario sarebbe stato solo un festival della disperazione. E quando mi ha raccontato questo aneddoto ho pensato che probabilmente avrei potuto realizzarlo davvero, un festival della disperazione, e un anno e mezzo dopo quella chiacchierata ci siamo riusciti. Ovviamente l'abbiamo riempito di contenuti, di pensiero, di citazioni. Ad esempio il motto da cui siamo partiti è una frase di Beckett tratta da Pseudo Chamfort, in cui Beckett dice sostanzialmente che la speranza non è che un ciarlatano che da sempre continua a prenderci in giro, e che lui, da quando aveva smesso di avere speranza, aveva iniziato a stare bene. E che quella frase che mette Dante all'inizio dell'inferno, lasciate ogni speranza voi che entrate, lui l'avrebbe messa davanti alle porte del paradiso. E sostanzialmente da questo motto abbiamo iniziato poi a ragionare sul fatto che effettivamente la disperazione è un vero sentimento letterario che nel tempo ha dato la stura, il via a tantissimi autori, basta creare i capolavori più importanti della letteratura di tutti i tempi, e ancora oggi continua a sorprenderci con il suo lato sia molto serio ma anche molto divertente, se pensiamo all'aspetto delle brutte figure, degli errori e quant'altro. Insomma, noi sono 6 anni che esploriamo questo sentimento e ogni anno che passa ne troviamo nuovi aspetti, nuove angolature, nuovi sguardi, e non smette mai di sorprenderci. E che percorso è stato, appunto, queste 6 edizioni che avete messo in piedi? In queste 6 edizioni si sono alternati negli spazi del festival tantissimi autori, filosofi, scienziati, secondo una concezione allargata di letteratura. E come dicevo prima, facendo un'altra citazione, il poeta Raffaello Baldini diceva: chi l'ha detto che della disperazione si debba solo piangere? Ed in effetti in questi 6 anni, anche se il sesto, insomma, lo vedremo dal 20 al 27 di luglio, con linguaggi anche assai diversi tra loro, dal teatro alla letteratura in senso stretto, abbiamo esplorato questo sentimento, e il festival è cresciuto moltissimo nelle prime 5 edizioni, dalla scommessa iniziale è diventato un festival strutturato e per fortuna anche molto conosciuto. Chiaramente, essendo un festival della disperazione, tutto bene non va mai completamente, ed in effetti il titolo di quest'anno che abbiamo scelto e che testualmente recita "Che fatica a sopravvivere", racconta la difficoltà di mantenere in piedi comunque una manifestazione culturale dopo 2 anni di pandemia e tante difficoltà, 2 anni in cui comunque ce l'abbiamo fatta a realizzare l'edizione nei pochi spazi, ecco, che la pandemia ci ha lasciati. Quindi, insomma, è un festival che anche con qualche difficoltà anche quest'anno sopravvive, e contiamo di continuare ad esplorare, insomma, il mondo della disperazione ancora a lungo. Come si articolerà quest'anno? Sono 8 giorni di incontri, talk, conferenze e spettacoli, con una media di 3 appuntamenti al giorno. Come ho detto prima, mantiene il format originario, quindi parleremo di temi legati al contemporaneo, sia sotto un aspetto serio, sia con il lato comico della disperazione. Tra gli ospiti possiamo ricordare la presenza di Luca Barbarossa, di Ivan Talarico, di Giuliana Sgrena, Roberto Mercadini e Guido Catalano. Abbiamo in 8 giorni oltre 25 eventi. Ora è caldissimo, però insomma la disperazione richiede anche un po' di sacrificio, altrimenti sarebbe un festival troppo facile da fare in una situazione di comodità. Com'è stata la scelta artistica? Una corsa quest'anno, perché non più tardi dello scorso maggio si era fatta concreta la possibilità che la 6ª edizione del festival non ci sarebbe stata. Poi si è accesa una luce in fondo, nel senso che proprio la disperazione derivante da quella condizione ci ha dato la forza per stringere i denti e per realizzare questa edizione, e quindi ci siamo messi a ragionare sulle tematiche del contemporaneo e sulle possibilità concrete di ospitare alcuni degli ospiti che avremmo voluto. E per esempio, ovviamente, ovviamente abbiamo puntato su temi come la guerra in Russia, ci sarà Mattia Bagnoli che è il corrispondente ANSA in Russia, o Antonio Losito, un autore satirico che ci spiegherà come diventare tiranni in un'epoca in cui in effetti la tirannia è ancora molto presente. Per cui il programma è nato da una situazione di contingenza e dal tentativo di unire l'aspetto riflessivo, serio e letterario, perché mi piace ricordare che ospitiamo anche ben due premi letterari, cioè il premio Campiello Opera prima e il premio Alessandro Leo Grande con Francesca Valente e Stefania Maurizi, e in questo caso andremo ad indagare sia la condizione dei pazienti liberati, per così dire, all'indomani della chiusura dei vecchi manicomi, mentre Stefania Maurizi ci porterà nel mondo di Wikileaks e quindi di Julian Assange e di tutto ciò che non viene raccontato dai cosiddetti poteri forti. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? Il programma è consultabile sul sito del festival www.festivaldelladisperazione.it. Lì possiamo leggere tutte le sinossi e le descrizioni del programma, gli orari, e ci sono anche i contatti e i riferimenti per chiedere qualunque informazione. Questa edizione del Festival della Disperazione ad Andria dal 20 al 27 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al Factotum Gigi Brandonisio. A presto! A presto e grazie a voi. Con Rita Azzeri, direttrice artistica della 14ª edizione di Nurarcheo Festival in Sardegna, Sadali, Orroli e Nurri dal 15 luglio al 1 agosto 2022. Ben trovata. Ben trovati a voi. Ce ne parli? Il festival nasce 14 anni fa, per l'appunto, con l'obiettivo di valorizzare attraverso lo spettacolo dal vivo quelle che sono le aree archeologiche della Sardegna. Noi abbiamo la fortuna di avere dei siti unici al mondo, tra nuraghi, domus dei Janas, pozzi sacri e via discorrendo. Questa edizione, ne siamo particolarmente felici, è ricca di nomi importanti del panorama teatrale italiano e internazionale. E tra tutti spiccano i nomi di Iaia Forte, Stefania Rocca, Tommaso Ragno, Marco Baliani, Giuliana Musso, e poi abbiamo i Motus che realizzano un allestimento particolare proprio per il sito. In particolare segnalo l'operazione che vede protagonista Stefania Rocca, perché ha anche la regia di Iaia Forte, che firma insieme a me la direzione artistica del festival e rappresenta un'opera realizzata appositamente per il nostro festival. Come sarà nei diversi luoghi e nelle giornate? Il programma è piuttosto articolato, quindi da questo punto di vista inviterei i nostri ascoltatori a prenderne visione sul nostro sito, che è www.ilcrogiuolo.eu. Io posso dire che abbiamo scelto il nuraghe a Rubio di Orroli, uno dei nuraghi più importanti della Sardegna, riconosciuto come patrimonio dell'umanità, per ospitare proprio tutti gli spettacoli del nazionale come cornice più prestigiosa, mentre su Sadali e Nurri viaggiano soprattutto quelle che sono le produzioni di compagnie regionali che sono in ogni caso inserite nel programma. Unica eccezione a questa regola generale, lo spettacolo di Iaia Forte, che apre il cartellone nazionale proprio a Nurri, perché comunque questo nuraghe rappresenta un po' una chicca, ha una grandissima quercia che è nata al suo interno ed è proprio nel cuore del paese, che è un piccolo paese nella Valle dei Laghi. Quanti saranno nel complesso gli eventi? Sono 22 spettacoli, quindi è un cartellone molto ricco, ci sono appuntamenti più o meno tutti i giorni. Lo spirito del festival è anche quello di far sì che chi viene a vedere gli spettacoli non abbia un atteggiamento, diciamo così, da consumatore di eventi, che è quello forse più diffuso nella borghesia medio-alta che attualmente frequenta il teatro italiano, ma vogliamo che i suoi luoghi si fermi e li conosca in maniera più approfondita. Quindi abbiamo cercato di organizzare anche delle escursioni naturalistiche, delle visite guidate, in maniera tale che quello del festival sia proprio un tempo lungo, un tempo di ascolto, un tempo di permanenza e poi un tempo anche di conoscenza e di confronto con gli artisti protagonisti delle diverse serate. Com'è stata la scelta degli spettacoli? Abbiamo viaggiato in questo modo con Yaya, ci siamo confrontate e abbiamo cercato di sentire quelle che sono state anche le persone più vicine a noi in questi 14 anni di attività, perché questa volta abbiamo portato il nostro festival anche all'attenzione di quella che è la critica nazionale, e quindi abbiamo cercato, pur non realizzando un'edizione tematica, di trovare degli spettacoli che rappresentassero per il territorio regionale comunque delle prime assolute, e alcune sono proprio delle prime nazionali, ecco, come lo spettacolo di Stefania Rocca, lo spettacolo di Tommaso Banfi che è previsto il 29 con la regia di Giuliana Musso. Ecco, questo Residui Teatro è una compagnia di Madrid che anche lei viene per la prima volta in Sardegna col suo spettacolo. Come saranno gli allestimenti in relazione ai luoghi? Grazie per questa domanda, perché gli allestimenti in un certo qual modo sono proprio pensati con la loro massima essenzialità. Perché noi lavoriamo direttamente in area archeologica, per cui chiaramente siamo legati anche alla collaborazione e ai permessi che la soprintendenza volta per volta deve rilasciare. Ovviamente non vengono montate strutture di forte impatto, quindi non ci sono palchi, non ci sono americane, ma il tutto viene pensato con degli allestimenti minimali che possono esaltare e favorire il dialogo tra artisti e appunto luoghi. Questa è una delle caratteristiche del festival, proprio perché vogliamo che in un certo qual modo questi eventi, per chi viene ad assistervi, siano effettivamente unici, per cui gli artisti che aderiscono al nostro festival sono anche disponibili poi a rivedere il loro lavoro sulla base dei luoghi nei quali si trovano poi a dover agire il loro spettacolo, e questo crea un po' la magia del luogo stesso, altrimenti uno spettacolo molto più comodamente magari uno potrebbe andare a vederlo a Roma, a Milano, piuttosto che in un altro luogo della penisola. Vogliamo che l'idea di venire in Sardegna possa rappresentare un unicum, non soltanto per il viaggio, la possibilità di stare al mare piuttosto che in montagna o nelle nostre colline che sono proprio molto belle, ma anche perché si può vedere così veramente una versione unica di quello spettacolo che non potrà essere ripetuta o vista in altri luoghi. 14esima edizione di Nurarcheo Festival in Sardegna, Sadali, Orroli e Nurri dal 15 luglio al 1 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Rita Azzeri. A presto! Molte grazie a voi! Con Fabio Galdini, direttore artistico del Roma Fringe Festival a Roma, al Teatro Vascello, dall'11 al 26 luglio 2022. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Spieghiamo cos'è il Roma Fringe Festival. È un festival, un brand internazionale che parte da Edimburgo e si dipana in tutto il mondo. Roma ha il suo Fringe, esiste da 10 anni, quest'anno dal 2012, quest'anno è la 10ª edizione, e si è sempre identificato come un festival concorso, ricordiamolo, indipendente. Questa parola per noi è vitale, perché ci connota in qualche modo ed è proprio la cifra, diciamo, di una proposta di politica culturale nel nostro paese. Quindi indipendente significa molte cose, ma prima di tutto per noi significa farcela da soli, senza il supporto pubblico, ecco. Come si è strutturato e sviluppato negli anni? È stato sempre, ripeto, una grande festa, un coinvolgimento a 360 gradi di tutte le discipline, nel senso che non ci sono limiti di proposta, purché sempre dentro il teatro o con qualche declinazione sul teatro danza. Quindi noi facciamo da sempre un bando, quest'anno hanno risposto in molti da tante parti d'Italia, e dal 2019, da quando lo dirigo, abbiamo innescato, introdotto anche una novità, cioè una rete di teatri fringe che ospiterà poi il vincitore. L'abbiamo chiamata appunto Zona Indipendente, che sono teatri o festival in Italia e che ospitano una data nella propria programmazione del vincitore. A partire dal Teatro Vascello, che quest'anno si consolida il nostro rapporto, grazie a Manuela Kusterman e al suo staff per aver capito fino in fondo il nostro progetto e averlo sposato. Ecco, quest'anno infatti noi faremo tutto il festival dentro il Vascello. Come sarà articolata questa edizione? La struttura è sempre la stessa, ci sono 3 spettacoli al giorno sullo stesso palcoscenico dalle 19 fino alle 22, sono in replica, nel senso che le compagnie debutteranno il primo giorno e andranno in replica il secondo giorno fino al 24, sono 21 compagnie che verranno giudicate, tra queste ci saranno 3 finalisti e questi saranno decretati da una giuria composta appunto dai direttori o i loro responsabili referenti di questi teatri di zona indipendente. E poi la finale, il 26, questi 3 finalisti, che sarà una giuria invece diversa, che sarà presieduta da Manuela Kusterman, a cui partecipano la Fondazione Fersen, c'è il premio stampa che è coordinato da Katia Paso. Insomma, arriveremo al vincitore. Generalmente di questo siamo molto soddisfatti. Negli ultimi anni il vincitore del Fringe ha avuto una eco nazionale. Grazie a noi, naturalmente alla loro arte, hanno avuto visibilità e molte importanti proposte sul piano nazionale. Questa è la nostra mission, poi, fondamentalmente. Com'è stata la selezione, la scelta dei lavori? Una commissione di valutazione è fatta da noi, devo dire che è stato difficilissimo perché la qualità è molto alta, le proposte sono molto innovative e quindi è stato molto più complicato rispetto al passato scegliere, purtroppo poi bisogna scegliere perché i compagni sono 21, le richieste sono tante, la partecipazione è molto estesa e quindi è sempre molto più difficile. Naturalmente gli elementi di valutazione sono, oltre a quelli tecnici, ma soprattutto di scrittura. Noi desideriamo appunto che il festival sia un festival di scrittura, di nuova drammaturgia, di nuove proposte o di testi inediti in Italia, insomma questo proprio anche per arricchire la proposta dell'attività teatrale romana, quindi è molto difficile cercare di capire quali sono le linee guida oggi in un sistema così tormentato, diciamo così, non solo sul piano artistico ma anche gestionale, ecco un momento molto molto tormentato e quindi è sempre stato molto difficile. Quest'anno veramente ce l'abbiamo messa tutta, ma la programmazione così come è stata fatta ha ottenuto già consensi da chi poi ci ospita, cioè in particolare, quindi voglio ringraziare la Manuela Kusterman e Pascello, che oggi è perlomeno fra tutta l'attività romana, è un teatro d'eccellenza non solo italiano ma anche con echi internazionali. Quest'anno il Pascello è stato il teatro del sold out, della proposta straordinaria che era tempo che si doveva vedere a Roma. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il nostro sito www.romafringefestival.it e poi anche quello del Vascello, naturalmente perché il botteghino è quello del Vascello, si possono già prenotare i biglietti, si possono già acquistare online e insomma vi aspettiamo per questa grande festa che va avanti da tanti anni del teatro indipendente. 10ª edizione del Roma Fringe Festival a Roma, Teatro Vascello, dall'11 al 26 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabio Galandini. A presto! Grazie, grazie a voi, a presto, vi aspetto. Siamo all'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana per il teatro e per la cultura. Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Eccoci, buon pomeriggio a tutti e buon teatro. Roma offre un po' di cose interessanti e andiamo a segnalare. Intanto sicuramente Fortezza Est continua la sua offerta fino al 24 luglio, quindi fino a fine settimana, il palco di Torpignattara con tutto in 12 minuti, cioè le pillole di spettacoli che andranno in scena appunto in forma molto ridotta per far vedere un po' quelli che saranno gli spettacoli per la prossima stagione. Segnalo qualcosina che magari è il caso di avere sott'occhio, insomma, ecco, stasera debutta una regia e drammaturgia di Erika Galante, che è cresciuto con la piccola compagnia da Monaco, che insomma torna a Roma per far vedere la propria idea di teatro. Poi magari, ecco, segnalo anche più avanti i 12 minuti con cui andremo a vedere un testo di Raveny del 20 di luglio, Shocking and Fucking, Mark Raveny, grande autore, anglosassone, regia di Elisa Buttà e Carlotta Campobasso, ma segnalo anche un po' più avanti la regia di Matteo Tarasco, 21 luglio, Disertare, così come la regia di Marco Maltauro, Siamo pronti alla morte, sempre il 21, lo stesso giorno in cui arrivano Elena Gigliotti e Daniela Vitale con Breakdance, anche se Breakdance in realtà è scritto un po' così. Poi ancora il 22, Valentina Beotti insieme a Federica Princi ripresenta Come ciò a cui tutto tende, e mi piace segnalare anche la regia di Dalila Cozzolino, conosciamo per il suo impegno soprattutto con l'Accademia dell'Antimafia e dei Diritti, App, e che va in scena con una sua regia, su drammaturgia di Claudia Salvatori, in scena Laura Garofoli con Caterina a circuito chiuso. Questo appunto ciò che ci sarà un po' in questi giorni al Teatro Fortezza Est, così come magari segnalo anche un testo di con Valeriano Solfiti, Il sogno di Gagarin. E mi fa piacere anche segnalare Paola Giglio, che torna in questo teatro con Interno Camera, una sua drammaturgia, lei sarà anche in scena, regia di Marcella Favilla. Poi andiamo ancora a vedere cosa ci offre il teatro questa settimana. È la settimana ancora del Fringe Festival, che continua al Teatro Vascello e presenta un po' di spettacoli. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è questa settimana, sicuramente con la regia di Alessio Pizzek, oggi e domani, con Berlino non è tua, Pizzek è un regista particolarmente noto in vari contesti italiani, e segnalo anche la Commedia Rossa, un testo di Alessia Giovanna Matrisciano, che sta crescendo molto, insomma, i suoi testi stanno andando in scena in varie rassegne, quindi sicuramente da seguire. Ancora da Bari questa regia di Anna De Giorgio e Damiano Francesco Nirchio con appunto la compagnia Senza Piume, che presenta Home Run in questi giorni, ma insomma va sul sito del Roma Fringe Festival per il programma completo. Io segnalo qualcosa che magari mi ha colpito particolarmente, senza dubbio ancora questo testo, la regia di Giulia Leandri, Per una lucciola, sarà 21 e 22 luglio, e insomma un po' di cose sparse qua e là da segnalare, ma è da vedere un po' tutto, e sicuramente oggi e domani questa provenienza da Caserta, Respiro Piano, Piera Russo, che dirige e interpreta questo testo scritto insieme a Nicola Maiello, ed è sicuramente interessante da segnalare. Questo quindi per quanto riguarda il Fringe Festival, che sarà al Teatro Vascello, ed è ancora al Teatro Vascello in questa settimana. Per quanto riguarda il Teatro Quarticciolo, in realtà il progetto del Teatro Quarticciolo, ma saranno Parco Vidale Santis, Via dei Gordiani 5, con ancora stasera alle 19.30 i Funamboli, cioè l'esito del laboratorio condotto da Asinitas, con Alessandro Arniani, per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, italiani, stranieri e di seconda generazione, per ridare al teatro un senso ampio di comunità questo spettacolo evento. Sì, è vero che è una serie di laboratori, ma un laboratorio molto particolare ed importante, che riconsidera dopo la pandemia, dopo questi anni animati da razzismo, da grandi differenze, da una distanza sociale sempre più ampia e un capitalismo vorace, come in fondo appunto il teatro e la comunità attorno al teatro possa di nuovo essere la risposta a queste grandi differenze. Ingresso libero questa sera alle 19.30 al parco di Villa De Santis. Continua anche i solisti del teatro, con la direzione di Carmen Pignataro. Questa settimana segnalo, ci sono spettacoli un po' tutti i giorni, probabilmente, ecco, da segnalare magari sicuramente nel weekend questo Vai a rubare a San Nicola di Anna Piscopo e Lamberto Carrozzi, firmato alla compagnia di Cialanera, che ben conosciamo, insomma, sarà il 22, e poi nel weekend sabato l'associazione Altra Scena presenta Manca solo Mozart, un'idea di Marco Simeoli. Ecco, questo per quanto riguarda i solisti del teatro, a via Flaminia 118. Per ciò che riguarda invece Castel Sant'Angelo, il 21 luglio tocca alla Tosca, al Castello, le arie di Tosca sotto l'Angelo di Castello, l'opera immortale di Puccini eseguita appunto nella cornice di Castel Sant'Angelo con interpreti di fama che vanno a portare appunto l'opera della Roma ottocentesca all'interno di questa cornice. Per ciò che riguarda invece il Festival Raffaello per Roma, la biografia di questa settimana è il ritratto d'autore, insomma, è quello di Chopin. Caro Chopin, 22 e 23 luglio con Elisabetta De Palo e Riccardo Barbera. Per ciò che riguarda invece il Teatro Tor Bella Monaca, mi fa piacere segnalare questa settimana appunto il ritorno in scena della rassegna. Si parte questa sera con Mia moglie Penelope, tratto da un testo di Luigi Malerba, Itaca per sempre, con Ornella Muti e Pino Quartullo, che firma anche la regia. Per quanto riguarda invece domani e dopodomani, mercoledì e giovedì 2021, Figli di Abramo con Stefano Sabelli, mi fa piacere segnalare il 22 Francesco Montanari con Davide Sacco per Playhouse del drammaturgo Martin Krimp, e un Beckett Aspettando Godot con Nello Arena 23-24 di luglio e la regia di Biagio Musella. Questo per quanto riguarda la settimana. Io semplicemente che settimana prossima inizierà la rassegna estiva dell'estate romana del Teatro di Roma, tra Argentina, India, Tor Bella Monaca, Quarticciolo e Lido di Ostia. Ne parleremo settimana prossima. Per questa settimana io, per ciò che riguarda il Teatro di Roma, segnalo soltanto che stamattina su Teatro e Critica, dopo un anno di richiesta di intervista al commissario Sole, che insomma ha affrontato in qualche modo la cura del teatro per tutta la stagione 2021-22, dopo un anno intero abbiamo deciso di pubblicare soltanto le domande, perché c'è stata rimandata al mittente la richiesta di, anzi che altro, ogni settimana ci veniva detto settimana prossima vi faremo sapere, e dopo una stagione intera abbiamo deciso di uscire direttamente con le domande senza risposte del commissario. Quindi per chi avesse voglia di cercare di capire come sta affrontando il Teatro di Roma questa trasformazione in fondazione, come sta affrontando la mancanza di direzione da qualche anno ormai a questa parte, a Roma o in tutta Italia, insomma è in caso di andare a vedere su Teatro e Critica. E questo è tutto, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.